Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, a grande richiesta torniamo, si riparte da ore da qui con Palla Spicchi, con la stagione dei canestri, con il popolo del basket, ma non solo, mi auguro al telefono 800 24 00 24, il numero verde messaggi 349 238 6666 e pagina Facebook del programma di Palla Spicchi, attraverso cui abbiamo chiesto: ma che voto dareste alla nazionale di Pianigiani? Poi vi leggo qualche risposta. Si riparte da ora e da qui e da Coach Dan Peterson, naturalmente. Ciao Coach! Ciao ragazzi, ciao Carlo, amici sportivi, ciao a tutti! Senti, ci sono anche, naturalmente in questo periodo ci sono soprattutto i mondiali. Si riparte da Palla Spicchi mondiale, mondiali che entrano da domani nella fase più bella, con un sacco di derby, Serbia-Croazia domani e Spagna-Grecia, l'ultima finale dei mondiali. Non dimenticare Brasile e Argentina. Brasile. Okay. Quindi grande rivalità, assolutamente. Grande rivalità, comunque domani si comincia subito col derby dei Balcani Serbia-Croazia, con la riedizione della finale mondiale Spagna-Grecia. Poi domenica Turchia-Francia, che non è male, Slovenia-Australia, lunedì Stati Uniti-Angola e Russia-Nuova Zelanda, sempre lunedì Lituania-Cina e appunto Argentina-Brasile. Questo è il tabellone che gli ultimi risultati hanno compilato. Partirei dalla tua nazionale di nascita, gli Stati Uniti, coach. Meno stellare del solito, ma Durant, Gordon, Rose, super giocatori comunque. Ma guarda, io ti dico una cosa, a mio avviso, io faccio ai miei amici, familiari, ex giocatori, allenatori, compagnia d'America, ogni giorno un blog in inglese, ok? 25 righe più o meno, cioè 5 giorni alla settimana. Poi aggiungo un altro su il mondiale di basket. E io ho scritto e dico qua, secondo me è stato un vantaggio, una benedizione per gli Stati Uniti non contare questa volta su Kobe Bryant, Dwayne Wade, LeBron James e tutti quanti. Cioè non c'è nessuno della squadra dei 08 che ha vinto la medaglia d'oro olimpica, e quindi gente nuova, facce nuove, voglia di emergere, hai detto tu, Durant e compagnia, Kevin Love, grande scoperta per il mondo, già l'NBA lo sapeva che era bravo, quindi entusiasmo, gioventù, gambe, tranne ovviamente Chauncey Billups che 33-34 anni, però è stata una cosa positiva per loro. Ovviamente loro partite negli ottavi contro Angola, povero Angola, sarà spazzato via, però dopo gli americani devono veramente saper affrontare tre partite durissime, perché già dagli ottavi ci sono squadre, partite, come tu hai detto Carlo, ma sulla carta, a parte Stati Uniti e Angola, 7 partite nessuno riesce a pronosticare. Sì, forse Russia e Nuova Zelanda. Vediamo, anche hai ragione, perché sulla carta dovrebbe essere, però Nuova Zelanda ha sempre la tradizione in ogni manifestazione di migliorare sistematicamente attraverso il torneo, cioè loro hanno questa qualità, quindi se loro si trovano in massima della forma nella partita, le ottavi di finale, sono capaci di tutto, quindi io non voglio prendere nessuna partita sotto, poi probabilmente non vinceranno, però non voglio prendere nessuna partita sotto gamba, tranne Stati Uniti e Angola, che lì ci sarà 100-50 probabilmente. Sì, sì. Senti, a proposito di un giocatore della nazionale statunitense che tu hai appena citato, ti voglio far sentire una cosa. Coach, tu lo sai cosa c'entra questa canzone famosissima con il centrone, degli Stati Uniti, Kevin Love? Ma Kevin Love, ovviamente qui stiamo ascoltando i Beach Boys, cosa vuoi che non conosci i Beach Boys con Surfing USA? E ovviamente il suo, penso che sia zio. Sì, suo stato, zio. Zio, Love è stato sempre ancora, loro fanno giri ancora. Tutto è esaurito ancora, i Beach Boys sono una sensazione incredibile, con grandi canzoni degli anni 60, Help Me Rhonda, tutte quelle cose lì, sì, Surfing USA e le altre, e lui è cugino, il suo padre è Stan Love, che ha giocato nell'NBA, e lui è ovviamente Stan Love, e l'altro Love delle, come si chiama, delle Beach Boys, sono ovviamente fratelli. Quindi grande tradizione. Grande tradizione, Kevin Love, tra l'altro gran bel giocatore, un giocatore old fashion, un giocatore, un centro vecchio stile. A me piace lui tanto, okay? Io vorrei tanto i New York Knickerbockers potessero prendere lui, ok? Quindi per mettere con Danilo, ma anche con Amari Stoudemire. Non mi interessa, per due grandi giocatori così c'è sempre spazio. Chiaro cosa, a proposito di NBA, l'estate della rivoluzione ha prodotto il Dream Team di Miami, ha lasciato New York con un pugno di mosche. Vabbè, no, non è una mosca Amari Stoudemire, però non è la super squadra che sognava la grande mela, Adesso, ma guarda le cose, ogni cosa ha la sua vita, il suo tempismo, le cose. Non hanno preso LeBron James perché probabilmente hanno sopravvalutato la questione economica e lui ha tanti soldi. Lui voleva giocare la squadra vincente, andava con Dwayne Wade, tirava dentro Bosch, ed ecco abbiamo tre della squadra nazionale, andiamo a vedere con le storie. Però Wade ha vinto un titolo, Bosch non è mai uscito dal primo turno dei playoffs, LeBron ha fatto un finale basta, quindi loro tuttora devono vincere e tutti, come tu sai benissimo, hanno puntato gli occhi addosso a loro. Cioè i Boston Celtics hanno veramente detto, ehi, devono passare sopra i nostri corpi per andare in finale, quantomeno i Lakers che li aspettano probabilmente. Quindi loro avranno una squadra fortissima sulla carta, ma avranno tutti addosso a loro come non mai. Ogni squadra che gioca contro di loro tirerà fuori la partita dell'anno, di questo sono sicuro. Sì, poi ci sono i Celtics che hanno deciso di riprovarci con una squadra, sembrava una squadra da scadenza, no? Finita quella indimenticabile serie finale. Invece ci riprova una specie di Milan, si è aggiunto lo sceriffo Shaq e l'altro O'Neal per provarci un'altra volta ancora. Permettimi di dire che i due O'Neal, a mio avviso, sono due ex giocatori. Cioè, Shaquille O'Neal in un anno di 82 partite, innanzitutto sarà infortunato per 30, quindi gioca 52. O'Neal sarà infortunato per 30, quindi anche lui gioca 52 partite. E di queste 52, Shaquille O'Neal tirerà fuori 7-8 grandissime partite, le altre in colore, idem per Jermaine O'Neal. Però ovviamente Boston vuole andare con usato sicuro, nomi famosi, giocatori che hanno contato qualche volta, ma per me sono ex giocatori. Coach, oggi prima puntata ti chiedo un mini supplementare, giusto una battuta dopo il traffico, su un altro tema che voglio toccare oggi, e cioè la nazionale, perché ho chiesto agli ascoltatori di dare i voti alla nazionale di Pianigiani, me li hanno dati. Voglio sentire il tuo subito dopo la viabilità, poi ti saluto. Palla spicchi. Poi dico i voti dei nostri ascoltatori, intanto voglio sentire il voto del coach alla nazionale di Pianigiani, a quest'estate della nazionale di Pianigiani. Qual è, coach? Ma innanzitutto, cioè, all'inizio hanno avuto la tremenda sfortuna di perdere due partite perché secondo me contro Israele in casa, poi Lettonia per un punto in Lettonia. E lì è stata ovviamente la cosa che ha costato accesso diretto agli europei del 2011, dovranno fare ovviamente ripescaggi. E certamente sulla carta uno dice, l'ultima volta 0-9 non hanno fatto gli europei, questa volta dovevano fare il challenge round anche questa volta, poi 0-9 non hanno vinto il challenge round, questa volta la possibilità di farcela. La squadra è cresciuta, ovviamente, girone andata, 1 vinte e 3 perse, girone ritorno 4 vinte e 0 perse, chiaro, c'è una crescita, vinto 5 delle ultime 6 partite e potevano benissimo vincere Montenegro, benissimo vincere Lettonia, quindi anche sfortuna ci vuole, però la squadra è migliorata, hanno seminato una mentalità vincente, i due giocatori NBA, Bellinelli e Bagnani, hanno veramente fatto tutto, sono stati veramente non bravi, super bravi a partecipare con la testa. È chiaro, qualcuno dice, poi il risultato è uguale, e la gente ha tutto permesso di dire questo qui. Io invece ho visto, perché sono stato lì a vedere allenamenti con loro, ho visto super lavoro, è un ottimo allenatore, super allenatore che è Pianigiani, sul staff tecnico Andrea Capobianco e Luca Del Monte, hanno lavorato benissimo. Francesco Cuzzolin, preparatore atletico, ex Treviso, adesso con Toronto Raptors, super, cioè meglio non si poteva fare. Adesso devono ricoinvolgere Bagnani, Bellinelli, devo coinvolgere Danilo Gallinari e tenere tutto quello che è stato buono di questa volta e probabilmente trovare qualche faccia nuova per questo qui. Però io sono, cioè, ovviamente sono come tutti dispiaciuto per il risultato, ma soddisfattissimo per il lavoro fatto. Sì, c'è fiducia. Grazie, coach. Coach, dimmi. Io ho grande fiducia nel lavoro che stanno facendo, di quello che fa Meneghin, Pianigiani, tutti quanti. Hanno scelto anche bene Carlo a scegliere un posto fisso per le partite in casa, a Bari. Cioè, anziché fare 100.000 trasferte attorno all'Italia, casa fissa, e Bari ha risposto alla grande, c'è proprio pubblico pieno, quasi pieno sempre, quindi è stata un'ottima idea per risparmiare energia. Ma ti voglio dire, ho un secondo per aggiungere una cosa, che secondo me quello che succede quando un nuovo allenatore prende una nuova squadra e va nelle manifestazioni ufficiali, come lui è andato in questo partito, le amichevoli non contano, okay? Ci vuole un attimo per capire chi deve fare sesto uomo, chi deve fare decimo uomo, chi deve andare in quintetto base, quando deve andare in turno, chi deve non entrare mai, la gerarchia della squadra. E gli è costato due partite, le prime due partite per Pianigiani e il suo staff per capire questo, perché dopo tu hai visto il risultato, fuori Rosa Poeta, in panchina sempre Aradori e Vitale, cioè hanno fatto le decisioni, hanno fatto e non dovranno passare questo stadio la prossima volta, quindi anche loro hanno fatto, secondo me, lo staff tecnico, anche loro, perché non dimenticare, loro dopo sei partite, tre vinte e tre perse, Peterson a Bologna nel 73 dopo sei partite, tre vinte e tre perse, Peterson a Milano dopo sei partite, tre vinte e tre perse, perché in tutte le due situazioni, sia Bologna che Milano, io dovevo imparare le cose della mia squadra che gli amichevoli non si insegnano. Sicura. E dovevo imparare prendendo calci nei denti, e ho perso le prime tre partite a Bologna, ho vinto le prime tre a Milano, poi tre sconfitte in fila a Milano. Quindi all'inizio ho fatto io pure, lo ammetto, una grande fatica, certamente l'hanno fatto loro, ma hanno imparato molto in fretta loro e avranno beneficio quando fanno ripescaggi. Poi com'è finita per Peterson a Bologna e a Milano lo sappiamo tutti. Speriamo che per la nazionale vada allo stesso modo, sarebbe tantissimo. Grazie coach! Ciao ragazzi, ci sentiamo venerdì. Ciao a tutti. Ci sentiamo venerdì con coach Dan Peterson. No, ma ha detto una cosa fondamentale che condivido, perché questa squadra, la nazionale italiana, tra poco torniamo a parlarne con un signore che era seduto su quella panchina azzurra, ha trovato due cose fondamentali in questo primo tragitto, in questa prima parte del percorso, cioè equilibri e gerarchie. Ed è già una splendida base di partenza. Chi era seduto su quella panchina vicino a Simone Pianigiani, che coach Dan Peterson ha citato prima, è Luca Dal Monte. Ciao Luca. Buongiorno, buongiorno allo studio e agli ascoltatori. Dicevamo bene o dicevamo fesserie? No, assolutamente bene. Poi io sono in difficoltà, perché dopo Peterson chiunque è in difficoltà. No, ma dicevo, come è cresciuta questa Italia? È partita come una squadra che aveva la scimmia sulla spalla, l'ho detto molte volte, una squadra che non aveva feeling con la vittoria, che aveva quasi paura di vincere, che aveva mille incertezze, ci troviamo per le mani una squadra, è vero, non qualificata, però una squadra. La disamina finale, io purtroppo ho ascoltato solo la parte finale dell'intervento di Coach Peterson, mi trovo assolutamente d'accordo. Io aggiungo anche che non siamo stati proprio in questo processo di crescita aiutati dal calendario, perché giocare la prima in casa con Israele, per noi la pressione era tanta, e probabilmente anche questa a questo aspetto ha giocato contro, però oggettivamente sta facendo, devo dire che i ragazzi hanno percepito i messaggi, li hanno razionalizzati, li hanno messi in pratica. È vero che nel percorso sono cambiate alcune scelte, le gerarchie, i ruoli, quindi questo sicuramente ha aiutato, però credo che il passaggio decisivo sia stato il metabolizzare da parte dei giocatori i messaggi che arrivavano, e che avevano comunque un segmento di tempo relativo, perché il tempo poi nazionale è tutto relativo. Certo, coinvolgiamo anche gli ascoltatori in questo discorso. 800240024, prima Nicola da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Secondo me anche il coach ha un po' esagerato, perché secondo me comunque il girone dovevamo vincerlo noi. Perché comunque Serbia, il Montenegro, Israele non sono comunque squadre espertissime da dire, da dare favorite loro. Sì. E se Dal Monte avete qualche play o pivot per il futuro, parte Gentile, di pivot proprio non ne vedo, anche futuribili. Sì, nemmeno io a dire la verità. Sul dovevamo vincere questo girone, insomma, non dobbiamo dimenticare da dove partivamo e da come partivamo. Secondo me non dovevamo vincere questo girone, non era obbligatorio. se ci qualificavamo era meglio, se non perdevamo in Lettonia probabilmente succedeva, eccetera eccetera, ma col senno di poi non cambia nulla. Quanto arresto giro tutto a Luca Dal Monte? Ma no, posso anche, rispettando assolutamente l'opinione, posso anche dire, a proposito della qualificazione mancata, che è certo che noi siamo, voglio dire, non siamo qualificati, e questo è un risultato che ci manca e che ci amareggia. Credo anche però allo stesso tempo che, a mio modo di vedere, è necessario che noi come movimento italiano diamo più rispetto a quello che sono i valori degli avversari e un po' più di razionalità al valore nostro, soprattutto quando si parla di una squadra, quindi quando un gruppo di giocatori subisce poi tante variabili infinite che sono il recente passato piuttosto che anche la difficoltà di costruire poi un nuovo percorso tecnico. Sicuramente abbiamo la necessità di trovare delle energie nuove, però devo anche dire, ed è questo deve essere la nostra forza anche fra 10-11 mesi, che il gruppo di oggi è un gruppo giovane, non tanto nella sua costituzione, ma nei singoli giocatori. Tantissimi giocatori sono nel fulcro della loro carriera, giocatori di 25, di 26 anni, per cui è il loro momento per esprimere al massimo nella loro carriera il meglio per la nazionale. Coach, cosa c'è in giro? Chiedeva l'ascoltatore. Soprattutto alla voce Lunghi, non moltissimo. No, oggettivamente non moltissimo. Quello che dovrà fare la federazione, a partire dai tecnici che sono a tempo pieno, ma è piano piano dovrà essere anche nostro compito, è proprio enfatizzare il ricambio, che sia poi tra un anno, tra due anni o tra tre anni, però sicuramente è compito della federazione arricchire le modalità per il ricambio, perché è importante che la federazione assista al ricambio della nazionale, perché è sicuramente il passaggio determinante per il futuro. Senti, Luca, tu avrai alla Scavolini Pesaro nella prossima stagione il prototipo del giovane giocatore italiano in crisi di crescita, Daniel Hackett. E sarà una motivazione in più per lui e per me e per lui, per mettere in discussione sulle prossime scelte, non tanto perché in questo momento ho la fortuna di allenare Hackett a Pesaro, ma perché penso che, ed spero che tanti giocatori come Daniel, e Daniel per primo mi auguro che lo sia, abbiano le motivazioni per fare una grande stagione e ricandidarsi per un posto nella maglia azzurra, perché abbiamo bisogno di giocatori che, grazie al campionato, grazie alla loro performance durante la stagione, arricchiscano, crescano, perché c'è necessità che i giocatori italiani rubino lo spazio. Certo. E con molta onestà devo dire che va al di là del numero legale che si può schierare in campo tre americani, due europei, quattro europei, due americani. Questo non c'entra, è la mentalità con cui devono aggredire le situazioni. Questo è il cambio di passo che il giocatore italiano deve fare. La mentalità con cui devono aggredire la loro professione, è un discorso, esatto, che non vale nemmeno solo per la pallacanestro, a parer mio, l'ho detto già un sacco di volte. Coach, per chiudere, il mercato che cosa ha detto, cosa sta dicendo? Io comincio a leggere le pagelle, i voti di qui, di là. Sei d'accordo su Milano che è al pari di Siena, su Milano favorita, su gerarchie ribaltate, eccetera, eccetera. Avremo un campionato più equilibrato oppure no? Più equilibrato in assoluto, indipendentemente dalle operazioni di mercato che ha fatto Milano per avvicinarsi a Siena e dal cambiamento di Siena, e sono due elementi coincidenti che fanno pensare a un equilibrio più vicino tra le due forze, essendo sotto e guardando tutto dal basso, dico che sarà un campionato molto bello, perché spendere meglio i soldi produce più razionalità nel costruire le squadre, e perché c'è un livello e un equilibrio vicinissimo tra tutte le squadre, e per cui quando c'è equilibrio vuol dire che c'è fascino, vuol dire che c'è certezza, e rende bello il campionato. Assolutamente. Grazie, buon lavoro coach. Buon lavoro a voi, grazie a voi. Grazie coach Luca Dal Monte. Io tornerei a parlare con gli ascoltatori, anche se in realtà adesso ho poco tempo. 800 24 00 24 è il numero verde, c'è chi dà i voti anche via SMS. Francesco da Milano 6.5 per la nazionale, ed è grosso modo il voto che rimbalza anche dalle pagine di Facebook. C'è però chi è molto, è professore molto più severo, come Mauro da Modena: l'Italia ha mostrato dei progressi ma siamo ancora una volta fuori, serve la mentalità giusta nell'additional round del prossimo anno. Voto 5 da Mauro, appunto. Luca dalla provincia di Milano, buongiorno. Pronto? Dica. Sì, ciao, sono Luca, complimenti per la trasmissione. Grazie. Due considerazioni. Intanto, punto primo, dico una banalità magari, ma ho visto un Bargnani illegale per l'Europa. Sì. Perché è veramente un giocatore fuori dal mondo. Per la prima volta. Sì, perché effettivamente mancava il carisma del leader, prima, c'è ragione. Ho visto un Maestranzi in netta crescita, che è un buon play secondo me. Sì. Mi piace molto come giocatore. E un'ultima cosa, secondo me la nazionale ha patito anche un girone abbastanza difficile, perché paragonato agli altri due, mi pare due o tre gironi di qualificazione agli europei, era decisamente il girone più difficile, perché se la nazionale avesse giocato tipo col Belgio o con le squadre lì, probabilmente a quest'ora staremmo parlando di una qualificazione abbastanza agevole. Sì, e cosa che non è avvenuta, nell'additional round avremo Georgia, Bulgaria, Polonia, Ucraina e Bosnia, e vediamo lì di tirar fuori la qualificazione agli europei, che è, non dimentichiamo, il risultato minimo che si chiede a questa nazionale. Abbiamo tutti fiducia perché abbiamo capito che la strada è quella giusta dopo le iniziali difficoltà, abbiamo una squadra vera, dicevo, abbiamo finalmente capito che Bargnani può essere un super giocatore pur con i limiti che ha anche il mago Bargnani, abbiamo capito che con Gallinari sarebbe, e io mi auguro sarà, un'altra storia, però adesso il risultato da guadagnare tra un anno senza discussioni è la qualificazione agli europei, che è la strada per Londra, per l'Olimpiade. Palla spicchi. Molti gli ascoltatori in linea, che oggi mi fa molto piacere questa ripresa di Palla a Spicchi. 800 24 00 24, SMS, Facebook, come detto 5.5 il voto di Nicola Gallo sulle pagina di Facebook del nostro programma, Fabio Nano 6.5, Mauro Mentore 6.5, Stefano Grotti divide in due, qui troppo facile però caro Stefano, 5 per il giorno d'andata, 8 per quello di ritorno. Serve però una media ponderata tra andata e ritorno, è compreso un risultato che alla fine, anche questo è giusto considerarlo, non è arrivato. Fabio da Milano che dice? Buongiorno. Buongiorno. Dunque, io dico che l'Italia, dopo una falsa partenza, forse non so, difficoltà di amalgamarsi, un po' di pressione, si è ripresa piuttosto bene e diciamo fa ben sperare. Anche perché secondo me Pianigiani sta lavorando molto bene. Però detto questo, intorno a Bargnani e Bellinelli il supporto in cast non sempre dà il suo contributo, ecco, cioè a parte un po' Mancinelli, Giacchetti e in parte Maestranzi, cioè a noi ci manca, e qui non scopo certo l'acqua calda, un centro un po' decente, perché Gigli e Crosariol sono stati due ectoplasmi in questo girone di qualificazione. Sì, un po' più Crosariol che di Gigli, che qualcosa di buono è riuscito di tanto in tanto a metterlo, e che comunque è un giocatore molto utile, molto prezioso. Però Fabio, non so se sei d'accordo su Crosariol, tengo per buona l'intervista che ho letto ieri o l'altro ieri, nei giorni scorsi comunque, a Matteo Bonicioli, che ha detto Crosariol deve decidersi se vuole essere il quarto lungo in una squadra di Serie A, che sia Roma o da un'altra parte, entrare 3 minuti, dare 4 mazzate, uscire per 5 falli senza spostare, o se vuol diventare un giocatore che ha le potenzialità di essere. Esatto, proprio questo, ed è quello che secondo me ci manca maggiormente in questa nazionale, perché Bargnani è stato immenso, Bellinelli il suo contributo l'ha dato. Adesso parte Gallinari, che io non vedo l'ora di vederlo giocare in questa nazionale. Non so, dico una cosa, avessimo avuto un Mason Rocca, che non è un fenomeno, però secondo me ci mette con la grinta sotto canestro, con le capacità, secondo me abbiamo potuto fare qualcosa di più. Ecco, la nostra grande mancanza in questo momento è avere un cast di supporto che riesca a dare il suo contributo oltre alle 2-3 stelle che possiamo avere. Ecco. Sì, però Fabio, diciamo che questa volta almeno abbiamo metabolizzato le stelle, le abbiamo rese funzionare al progetto, cosa che in passato non è accaduta, no? Perché Bargnani su questi livelli non lo avevamo mai visto. È un giocatore anche molto particolare, non ha, io credo, le caratteristiche e la stoffa del leader emotivo per una squadra, cosa che si è sentita soprattutto nelle prime partite, E poi il resto è prendiamo quello che c'è in giro, che comunque è migliorabile, certamente. Aspettiamo la crescita di qualche altro giocatore. Prima citavo Hackett con Costa Dal Monte, lo avrà le sue dipendenze nella prossima stagione. Potrei fare il nome di Melli, potrei fare qualche altro nome, non moltissimi, però giocatori che possono essere buoni nel cast di supporto. Però soprattutto manca il terzo trombettista di livello, forse il più forte, cioè Danilo Gallinari, che invece ha la stoffa per essere leader. Peccato che in nazionale non l'abbiamo mai visto, come ben sapete, causa infortuni, vicissitudini, eccetera, o rinuncia, come in questo caso. Però non l'abbiamo mai visto Danilo Gallinari. Può essere davvero giocatore che aumenta ovviamente in maniera enorme il tasso tecnico, ma può essere anche e soprattutto il leader anche emotivo che questa squadra, insomma, ha trovato solo in parte, in mordente, ad esempio, in Mancinelli. Marco da Modena, buongiorno. Sì, ciao. Volevo indicare la compagnia innanzitutto e volevo dimostrare che non c'è sempre Luca, che è un mio antico amico di infanzia, sì. Compagno di merenda, peccato. No, volevo dire una cosa banale su Gallinari, forse è stata anche già sottolineata. Non vorrei confutare quanto detto da Peterson e anche da voi, ma non è che poi c'è da rifare tutto l'equilibrio e altre tre partite vengono perse per ritrovare l'equilibrio una volta che lui sarà in squadra. Ma Pianigiani ha detto di no in un'intervista che stavo leggendo prima su Superbasket. Pianigiani ha detto di no, cioè Gallinari può essere comunque, ma anch'io, devo dirti la verità Marco, ho avuto questo pensiero. Però Pianigiani dice che in questa squadra un giocatore come Gallinari può essere inserito con facilità, senza spostare, modificare gli equilibri già stabiliti. Più che altro la vera incognita e la vera battaglia sarà quella che dovrà condurre la Federbasket, dovrà condurre Dino Meneghin con l'NBA, perché al momento non possiamo dire con certezza che gli stessi Bargnani e Berinelli oltre a Gallinari saranno con lui l'anno prossimo. Questo è il vero grande interrogativo che oggi il 3 di settembre circola. Poi magari ci auguriamo tutti venga fugato d'inverno. Però insomma, mi sembra evidente che questa nazionale di Bargnani, Berinelli e Gallinari ha bisogno per andare all'additional round, insomma, con la fiducia che oggi abbiamo. Io saluto e ringrazio anche Stefano Valenti, inviato di Superbasket e nostro amico di antica data che è tornato. Ciao Stefano. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Poi ricordami che c'è un ascoltatore che ti vuol fare una domanda, l'ha spedita o scritto, postata, non mi ricordo come si dice, su Facebook. Si chiama Giuseppe Paoliello, poi te la giro così rispondi. Stiamo provando a dare voti a questa nazionale. Giochino semplice, ma insomma, mi sembra il caso di farlo. Il tuo qual è? Beh, è ovvio che si scontrano due filosofie, quella del risultato e quella del progetto. Non si sono incontrate completamente, il risultato è mancato, l'Italia inseguiva la qualificazione diretta e non l'ha conquistata. Per certi versi battendo una strada già vista, il girone di fase di qualificazione non ci è amico, non ci piace, l'abbiamo visto nel 2008, però a differenza del 2008 stavolta c'è veramente aria nuova. Ho avuto la possibilità di vivere con la squadra una settimana tra la trasferta in Finlandia e l'ultima partita a Bari. E posso dire, al di là di quello che magari si è visto in televisione o si è letto sui giornali, che questo gruppo è veramente un gruppo. Ho visto con piacere il desiderio di Andrea Bargnani di essere considerato uno del gruppo nel momento in cui sul campo si dimostrava finalmente quel giocatore che tutti si aspettavano. Sì. Quindi proprio il suo desiderio, come dire, di non avere un trattamento diverso dagli altri, era lui che voleva essere coinvolto, era lui che cercava i compagni, compresi quelli che poi inevitabilmente sono finiti fuori dai 12, mi riferisco a Poeta, mi riferisco a Cavaliero, che ho visto allenarsi con ferocia prima delle un'ora prima della partita con Cuzzolin, lo stesso Lechtaler, che comunque è un centro giovane che ha stazza e tutta la possibilità, se anche il desiderio, di far parte di questo gruppo della nazionale. Ho visto altrettanto coinvolto Marco Bellinelli, è innegabile che ci si aspettasse qualcosa di lui, di più da lui, ma ha fatto tante altre cose, riempire lo scout che magari in precedenza non avevamo visto, la maschera lo ha ovviamente infastidito. so anche che nelle ultimissime partite la maschera in realtà la poteva togliere, ma poi si è deciso e lui stesso ha preferito di evitare magari ricadute complice il passaggio a una nuova squadra NBA, sì, e quanto d'altro, quindi sì, un po' limitato. E ovviamente serve Gallinari. Ho ascoltato la parte finale del tuo intervento. A questo punto, se l'anno scorso, alla vigilia di questo grande rinnovamento, che ripeto, ho avuto la possibilità di testare con mano quanto tutte le cose abbiano funzionato a altissimo livello, lo staff tecnico, lo staff sanitario, il lavoro di Cuzzolin e il piacere dei giocatori di vivere questa realtà, adesso che questa realtà ha messo basi importanti, c'è bisogno di Gallinari, che non deve essere e non dovrà essere il salvatore della patria. Non abbiamo bisogno di un fenomeno, abbiamo due giocatori già importanti, abbiamo ritrovato altri giocatori utili, Carraretto ha dato l'esempio di cosa significa essere un sesto, settimo, ottavo uomo a Siena, che però diventa molto utile in nazionale. Maestranzi aveva giocato zero partite in Europa, ora sa cosa l'aspetta e comunque la sua parte l'ha fatta, era veramente un rookie, e a questi livelli, quando gli altri poi fanno giocare americani con passaporti discutibili, partono da un punto di vantaggio che Maestranzi stavolta non aveva, ma l'anno prossimo avrà. Dicevo Gallinari, per dare quel qualcosa in più che serve a scuola, per avere anche un volto tattico e tecnico superiore, perché comunque l'additional round sarà complesso, perché siccome noi possiamo recuperare Gallinari, altre squadre possono recuperare giocatori che stavolta non c'erano. Sì, oppure passaportarli facilmente, come dicevi tutto tu. Tutto può essere. Tutto può essere, Stefano, però dicevo anche che questa squadra parte dalla fiducia che si respira e che emerge anche dalle tue parole, però parte anche da due concetti come equilibri e gerarchie, che sono fondamentali se si gioca a pallacanestro e che Pianigiani ha riuscito. È stato bravissimo a trovare anche in breve tempo. Senza dubbio, per esperienza, per tanti anni vissuti al fianco della nazionale, l'idea è che quando si analizza poi la nazionale che va in campo ci si aspetta sempre il meglio, il top, il risultato, perché la nazionale, perché sono i migliori giocatori, perché siamo l'Italia. Non è così, la nazionale è una centrifuga terribile, non bisogna pensare che magari leggendo anche quello che noi stessi abbiamo raccontato su Superbasket, le tante attenzioni siano coccole, sono necessità, perché magari proprio giocatori come Barniani e Bellinelli ormai si sono abituati a quello standard, ma la realtà è veramente mettere i giocatori nelle migliori condizioni possibili e, come ha detto anche Dino Meneghin, non concedere più alibi, perché è indiscusso che non tutte le colpe fossero di Carlo Recalcati e anche i giocatori hanno avuto la loro parte di responsabilità in tutto quello che è successo. Quindi una nazionale, ripeto, che però riparte da un ribaltone anche coraggioso per certi versi, che però è stato apprezzato, c'era curiosità, interesse, non certo scetticismo, però i sistemi, il metodo di Pianigiani è sicuramente diverso dal passato ed è stato metabolizzato. Purtroppo non si è riusciti a ottenere, come dicevo, il risultato, il calendario non ha aiutato, la prima in casa con Israele è stata una partita molto complessa e sicuramente certo, la peggiore, e poi lo sappiamo, sarebbe bastata la vittoria in terra lettone, che magari poteva essere in calendario l'ultima partita e si sarebbe andati là con altra mentalità, altre certezze a vincere. Arrivati alla seconda, quando tutte le squadre sono ancora in corsa, tutte sperano di potercela fare, ovviamente la partita era comunque più complessa. Sì, era un'Italia che giocava ancora comunque zavorrata, perché sembrava quella squadra che a vincere non ci riusciva proprio più. Stefano, ti chiedo un attimo di pazienza perché ho il traffico e poi vorrei fare giusto due chiacchiere con te sui mondiali che stiamo anche vedendo con frequenza, abbondanza e tempestività sugli schermi televisivi, come ben sapete. Palla spicchi. Dunque, Stefano Valenti, cosa stanno dicendo questi mondiali per i quali la Rai ha approntato un'esauriente copertura televisiva, secondo me, fin qui? Concordo, sappiamo che la Rai ha un contratto in essere con FIBA per gli eventi, in passato non sempre ci aveva dato soddisfazione, questa volta non lo si può assolutamente dire, anche perché le immagini non sono uscite solo sul digitale terrestre, che era una possibilità, e non c'era l'obbligo per la Rai di passare anche sul satellite, perché passare sul satellite significa spendere dei soldi, evidentemente in Rai hanno deciso di farlo, e dunque il mondiale è visibile sia a chi già usufruisce del segnale digitale terrestre, sia chi lo vede attraverso la piattaforma satellitare. Le partite ne abbiamo viste tante, fino a 3 al giorno, siamo in attesa di sapere la programmazione per l'ultima settimana. Per quello che più o meno sono riuscito a sapere, comunque dovrebbe essere garantita una partita al giorno, se il palinsesto lo consentirà anche 2. Insomma, da questo punto di vista penso che gli appassionati possano essere soddisfatti. Anche perché Serbia-Croazia io la voglio vedere così come Spagna-Grecia e come minimo Argentina-Brasile. Speriamo che... con Magnano sulla panchina del Brasile, sì, io sì. Penso che fosse accaduto nel calcio una cosa del genere, adesso non sono profondo conoscitore, magari è anche accaduta. Però diciamo che restando al nostro piccolo mondo, 2004 Magnano vince le Olimpiadi, lo sappiamo, alla guida dell'Argentina, oggi guida il Brasile contro l'Argentina, insomma... Fosse accaduto nel calcio, penso, apertura del telegiornale. Sì, e comunque a prescindere è una bellissima storia. Già che siamo in argomento, visto che non stiamo facendo grandi acrobazie sui vari media per vedere questi mondiali in cui l'Italia non c'è, la stagione televisiva del basket che verrà? Dunque, parlando di massimi sistemi, quindi di Sky, c'è ancora il contratto in essere fino al giugno del 2011, ci sono stati dei colloqui sul discorso del numero di partite che potevano essere ridotte da 3 a 2, non è passata, le partite restano 3 e la novità che avevamo un po' anticipato il Superbasket prima dell'estate è che la partita delle 12 non sarà più la partita delle 12 ma la partita delle 11:45. Questo perché? Perché la domenica alle 12:30 rompe il calcio, i grandi studiosi di ascolti hanno fatto le loro analisi e in pratica si andrà a incastrare il calcio e il basket in modo, si spera, proficuo per entrambi sul piano degli ascolti. In sostanza il basket parte prima, quindi la visione dei primi 2 quarti sarà libera senza concomitanze calcistiche e poi nell'intervallo del calcio si dovrebbe giocare l'ultimo quarto del basket e si è visto con esempi nella stagione scorsa che poi l'appassionato anche di calcio, se c'è un evento parallelo che si svolge in quel momento e in diretta e magari offre qualche emozione come il basket sicuramente è in grado di fare, anche se c'è l'intervallo e tante chiacchiere si preferisce vedere l'evento in diretta. Sì. Sperimentazione, vedremo, però questa è la notizia diciamo dell'anno. Sì, che era un po' l'incastro che a parte invertite forse che si faceva col posticipo della domenica 20:30, 20:45 eccetera, proprio per incastrare i due eventi. Io ti avevo promesso la domanda di un ascoltatore che però mi sembra abbastanza complessa, non so se riesci a rispondere in un minuto così su due piedi. Giuseppe Paoliello ti chiede, utilizzando la pagina Facebook, nell'epoca di internet come dovrebbero evolvere le poche riviste italiane che si occupano esclusivamente di pallacanestro? Domandone, mi pare. Cercando di offrire quello che la rete non può dare. Ponendoci noi come Superbasket, come America Superbasket, in maniera sicuramente diversa dal passato, sono state analizzate e studiate le nuove dinamiche diciamo della ricerca delle informazioni e in maniera per certi versi complementare, ma non certamente non subendo un mezzo che ovviamente è in grandissima espansione, nessuno lo nega, ma non raggiunge ancora tutti. Quindi sostanzialmente, proprio volendo rispondere in un minuto, quello che la rete non dice, quello che la televisione non fa vedere, la radio non fa ascoltare, si può leggere, resta qualcosa di contenuti, perché quello che riusciamo a fare, non sempre ma ci proviamo, è raccontare il contatto umano che la rete non può dare. Grazie Stefano, ci sentiamo prestissimo. Grazie a voi. Un abbraccio, grazie a Stefano Valenti. Siamo quasi in chiusura, ma ci resta da parlare, come sempre abbiamo fatto in quest'estate, non abbandoniamo ancora per una settimana queste buone abitudini, visto che siamo in una fase calda, adesso i motori. Sport e motori. Dunque è tornata Palla a Spicchi, ma d'estate come sapete è sempre tempo di motori. C'è Misano, c'è una tappa importante del moto mondiale, c'è Valentino Rossi, padrone di casa, che però insomma dalle dichiarazioni della vigilia sembra partire a fari spenti. E, insomma, ne parliamo con Massimo Di Scienza, che ben conoscete, che ogni domenica, anche la prossima, anche dopodomani, dalle 16:30 alle 17 conduce Sport e Motori da questi microfoni. Ciao Massimo. Tutto giusto, ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Valentino che dice a casa sua il podio è la massima ambizione, mi sembra poco. sì, mi sembra mettere le mani avanti. Qui Valentino viene da un paio di stagioni straordinarie, 2 anni fa, l'anno scorso, 2 successi che insomma sicuramente ricorderà tra i più belli della sua carriera. Mettere le mani avanti perché comunque Misano non arriva nel momento giusto. Secondo me, fosse arrivato in ottobre, quasi a fine stagione, probabilmente sarebbe stato meglio, perché comunque Valentino fra un mese avrà ritrovato il 100% della condizione fisica, perché comunque le tossine dell'addio Yamaha secondo me si saranno un pochino stemperate. Adesso siamo ancora nel pieno della bufera, perché Lorenzo non ha ancora vinto il mondiale, quindi vorrà fare punti e non lascerà, non regalerà nulla a nessuno. Secondo me Valentino ha più possibilità di quello che dice, però appunto non vuole fare proclami, perché poi, come dire, i proclami si fa presto a essere smentiti sulla pista. Sì, gran fretta di rientrare per Valentino Rossi, però una condizione fisica che, non lo dicevi tu ora, non è il massimo della vita, fatalmente condiziona anche un fenomeno come lui, che non credo si senta ancora vecchietto. No, non si sente un vecchietto. È in ripresa comunque la condizione fisica. Io non sottovaluterei il quarto posto di domenica scorsa ad Indianapolis, sul circuito forse che fisicamente impegna di più i piloti di tutto il mondiale. Lui ha retto bene, a differenza di altri, a differenza di altri che hanno avuto problemi, come dire, di gestione anche psicologica del tracciato, come Stoner. Probabilmente il fatto che arrivi però soltanto a una settimana di distanza il tempo di Misano rispetto ad Indianapolis è per Valentino Rossi una, come dire, penalizzazione ancora maggiore, ed è per questo che, torniamo a dirlo, alla vigilia ha messo le mani avanti come raramente abbiamo avuto modo di sentirlo nel corso della sua carriera, soprattutto quando si corre a casa sua, cioè a Misano. Massimo, può essere ancora come in America Ben Spies, pilota in ascesa, il pilota che prenderà proprio il posto di Valentino Rossi e che insomma immagino una bella battaglia su Andy Murray nel box con Lorenzo. Può essere anche a Misano Ben Spies la variabile impazzita sul podio? Ah, può esserlo, deve esserlo, perché la sua maglia da titolare Yamaha per l'anno prossimo ancora non l'ha conquistata dal punto di vista ufficiale. Poi certo i rumors parlano abbastanza chiaro. Io mi aspetto una bella gara da lui, mi aspetto una bella gara da Dovizioso, che ancora deve dimostrare il 100% delle sue potenzialità in questa stagione, e anche lui si gioca una convocazione, così sempre per restare in termini calcistici, per la prossima stagione. Si vocifera di un della possibilità di una conferma in Honda, si vocifera anche di una possibilità di un passaggio in Ducati, seppur con il team tra virgolette secondario. Insomma, da Spies e da Dovizioso mi aspetto una grande gara. Massimo, per chiudere sempre in tema di moto, a Nürburgring si corre anche la Superbike, c'è Biaggi che deve resistere all'attacco di Aslam per portare a casa questo titolo mondiale. Secondo te ce la fa? Mi sembra troppo determinato, Max Biaggi troppo più esperto del suo avversario per perdere questa possibilità. Non si gioca punto a punto, Biaggi può gestire la situazione e secondo me, diciamo che ha il 51% di possibilità per restare bassi. Anche qui scaramantici, come con Valentino Rossi, non diciamo nulla, ma insomma, come dire, le carte sono in regola per Max per tornare iridato. E domenica alle 14 si corre Moto Mondiale, le gare della Superbike sono alle 12 e alle 15:30, si vede tutto in diretta televisiva naturalmente, Moto Mondiale su Mediaset, Superbike sulla 7, e dalle 16:30 Massimo Di Scienza qui a Radio 24, giusto? Tutto giusto anche stavolta. Tutto giusto anche stavolta. Grazie a Massimo Di Scienza, con cui chiudiamo il programma di oggi. Lo sport, naturalmente, domani sabato piena ripresa di tutte anche le nostre attività sportive, dunque a tempo di sport dalle 5 alle 6 domani pomeriggio vi terrò compagnia, parleremo ovviamente della nazionale che questa sera, cioè di Prandelli, non più quella di Pianigiani, che questa sera vedremo in TV cercare 3 punti sulla via delle qualificazioni europee. Ci sentiamo domani, naturalmente ne parliamo domani, grazie a Franco Piantanida in redazione e a Pietro Lacorte in regia. Buona giornata. Palla Spicchi.